Ricordate, per ogni viaggio sono utilizzabili solo 3/4 della legna raccolta. Per calcolare a quanto corrisponde, dovete dividere la legna trasportata per 4 e poi moltiplicare il risultato per 3.